Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, ultimo venerdì dell'anno per questa stagione sportiva di Palla Spicchi. Resterà, come dico ormai tutte le volte, l'appuntamento della domenica sera dalle 8:30 alle 9 come faro dei playoff. Vi dico subito che tra pochi istanti darò i risultati della sera e della notte del basket, quindi se qualcuno ha dei conti in sospeso con la televisione, ecco, si regoli come crede, tra poco li dico, compreso quello della gara 1 di finale NBA. Intanto saluto coach Dan Peterson, ciao coach. Ciao ragazzi, amici sportivi, buona estate quando cominciamo, ok? Buona estate coach, Flavio Suardi. Ciao, ciao a tutti, ciao Carlo, ciao coach. E qui vicino a me, per chiudere in bellezza questa stagione di Palla Spicchi, quello che è stato, se non il miglior allenatore dell'anno, della stagione quasi, Fabrizio Frates. Ciao Fabrizio, grazie. Ciao a tutti, ciao coach. Ciao Fabrizio, complimenti, ok? Grazie. Coach, grande stagione, eh? L'architetto Frates. È il mio soprannome per lui. Io non lo chiamo Fabrizio, non lo chiamo Frates, è l'architetto lui, ok? Per eccellenza, quindi è come sempre. E per questo lui disegna gli schemi benissimo, e quindi è un titolo giusto. È un titolo giusto, ti ritrovi? Sì, sì, sì, sì. Ma poi il coach fa il mio agente già da tanti anni. Non gli ho mai dato una lira, però. Fammi due o tre ceni, ok? Esatto. È arrivato il momento di dire i risultati della sera e della notte. Siena va sul 2-0, batte Cantù 104-74 più 30 dunque per Siena. Cantù che resiste nel primo tempo 13 minuti fino al 38 pari, poi cede il passo a Siena prontissima in questi playoff. E poi i Lakers in gara 1 102-89, partita sempre in controllo per Kobe Bryant e Gasol, due grandi protagonisti. I Lakers che hanno trovato subito le chiavi della difesa di Boston, mi pare. Partirei da Cantù, coach. Gioca bene a pallacanestro, senz'altro, ma l'impressione è che siano un po' stremati, pochi corpi, pochi muscoli da buttare contro Siena. Realistico dire che in questa serie ciò che conta è il punto della bandiera che Cantù cercherà domani sera al Pianella. Allora, innanzitutto Cantù per un capolavoro per arrivare a questo punto, a giocarsi contro Siena dopo una quarti finale abbastanza tesa, e Davide contro Golia, ovviamente, e contro questi grandi squadre come Siena tu puoi resistere per 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, anche Abbiamo invece qualche problema. Abbiamo qualche problema a sentire il coach. Proviamo a ripristinare il collegamento. Intanto giro la palla a Fabrizio Frates. Fabrizio, tra l'altro, tu contesa fino all'ultimo momento con Trinchieri per allenatore dell'anno. No, beh, ma secondo me è giustissimo che l'abbia vinta per lui, perché ha fatto una stagione straordinaria. Noi anche. Però insomma, una semifinale scudetto al primo anno sulla panchina di Cantù, risultato indimenticabile e irripetibile, penso. Per cui è giustissimo che abbia vinto lui, lo ha dimostrato tutto l'anno. La squadra è solida, compatta, gioca bene insieme. Anche in questa serie ci sta riuscendo a dimostrarlo, solo che non si riesce mai a dimostrarlo per 40 minuti contro Siena, perché poi adesso Siena, come avete detto voi, è anche molto più fresca, perché paradossalmente è stata un po' a riposarsi, i giocatori si sono sistemati i loro acciacchi, hanno fatto una prima serie sicuramente molto meno dispendiosa di quella di Cantù, e quindi hanno più energie già di partenza e più rotazioni, per cui mi sembra che Cantù tiene botta finché c'è la fama, poi alla fine piano piano li strangolano per asfissia proprio. Ecco, mi sembra di capire, Fabrizio, tu che l'hai anche incontrata, che è proprio quello il problema di incontrare Siena, cioè di non riuscire a giocare alla pari per tutta la partita. Fisicamente sono esageratamente superiori rispetto alle altre squadre. Sì, sì, noi nella nostra partita, beh, a Siena devo dire siamo stati in partita, ma l'inerzia ce l'avevano sempre loro. A Montegranaro un po' meglio, siamo arrivati attaccati fino alla fine, però lo capisci che non ce la fai, perché poi le tre giocate importanti loro hanno più energie. La verità è che tieni quel passo se tieni in campo sempre i tuoi primi 5, poi come attacchi con la panchina, loro dalla panchina escono giocatori che i primi 5 magari sono anche peggio, ecco perché Lavrinovic è un giocatore che mille volte è entrato in una partita e l'ha cambiata, per cui è lì che loro fanno veramente la differenza, tenendo altissimo l'intensità su tutti i 40 minuti. Tornato coach Dan Peterson, coach, ce la fa domani Cantù il punto della bandiera per coronare la sua stagione? Ha visto questi risultati qui, dubito tanto, però giocando in casa con l'orgoglio che hanno e la stagione che hanno fatto, certamente ci metteranno tutto. E che loro, cioè, come abbiamo visto ieri sera, 15 minuti non bastano, cioè, è una maratona e anche uno sprint di 100 metri, cioè proprio deve sprintare 100 metri alla volta per 42 chilometri, ogni minuto, cioè ogni minuto della partita col Siena è come un chilometro della maratona e tu devi avere polmone, gambe, testa, cuore e tutte le altre cose e soprattutto negli ultimi 5 minuti che lo stress accumulato veramente, come ha detto Fabrizio Frates, che ci vai avanti, però sai che loro hanno una freccia proprio in più di te e questa è la storia. Però Cantù, se fa la partita perfetta, senza eccezione, senza un minuto di sbavatura, certo la può fare. A Caserta si è vista la miglior Milano della stagione per quanto riguarda l'altra parte del tabellone, presto però secondo me per dire che Milano sia stabilmente questa, perché presto per dire se Monro può dare questo apporto in maniera continuativa, se Arnold può dare questo apporto in maniera continuativa. Di tutti, ha giocato la miglior partita dell'anno a Caserta in gara 1, quindi anche questo è importante, sapere in una maniera o l'altra raggiungere la, diciamo, piena forza nel momento giusto. Anche questi due nuovi arrivati hanno dato veramente, Manuel e Arnold hanno dato ciò che dovevano dare alla squadra, quello che loro aspettavano da altri tipo Hacker e compagnia durante tutto l'anno, però hanno trovato il giocatore, questi due qui che sono uno disposto a giocare difesa, due a disposto a giocare dentro il sistema di attacco e non martellare la palla come un Fabbro ogni due secondi, tre da fuori, e questo viene abbastanza facile per Piero Bucchi, ok, l'allenatore di Milano. Tu hai affrontato, Fabrizio, Milano, questa Milano al di là delle polemiche, del polverone che si è sollevato per ciò che è successo al forum, ce lo ricordiamo tutti, poi semmai ne parliamo e torniamo sul discorso, perché ho letto un interessante articolo di Stefano Valenti su Superbasket di questa settimana e sulle modalità in cui si potrebbe ovviare a questi problemi con la tecnologia. Al di là di questo, come l'hai vista Milano? Guarda, io vado un po' controcorrente, tutti a Milano storcono il naso perché a Milano c'è questa tradizione che comunque non va mai bene niente, anche perché le squadre che sono viste qua sono state squadre, e coach se le ricorda bene, con giocatori onestamente di un altro livello rispetto a quelli di oggi, però Milano è tosta, anche è vero, magari non gioca un basket spettacolare ma è molto solida in difesa, non molla mai. Noi abbiamo fatto 3 partite speculari, siamo sempre stati avanti noi 28-30 minuti su 40, ma alla fine l'ha sempre vinta loro, perché veramente sono quadrati, sono solidi, hanno un modo di stare insieme importante e hanno tanto mestiere nei momenti chiave delle partite, lo hanno dimostrato anche a Caserta. Se poi i due nuovi danno questa addizione, allora veramente diventano molto pericolosi, perché Arnold, non dimentichiamoci, è un giocatore avanti negli anni, ma un giocatore che è stato di grandissima classe, importante a livelli altissimi in Europa. Monroe è un giocatore che ha sempre fatto punti dove è andato ed è anche un bellissimo atteggiamento difensivo, per cui io credo che se questi due continuano con questo ritmo qua, Milano veramente è messa bene. Si può dire, e lo chiedo sia se possiamo anche al coach, se la comunicazione regge, che stiano cercando di trovare una quadratura, finalmente si siano dati una direzione da seguire e pian piano stanno cercando di perseguirla come assetto da questo punto di vista. Ma sai, non dimentichiamoci che loro avevano fondato la squadra su due giocatori, Finlay e Petravicius, e questi due giocatori non so quante partite hanno giocato insieme, perché prima è stato fuori Finlay e poi è stato fuori Petravicius, e questa è una roba che non possiamo mai dimenticare, perché quando tu progetti una squadra, playmaker e pivot sono i due giocatori fondamentali, sono i tuoi cardini, e se non riescono mai a stare insieme tutti gli equilibri cambiano. Questo ha anche condizionato secondo me le scelte di mercato durante l'anno, perché si aveva paura a cambiare giocatori quando se ne avevano altri infortunati, e quindi loro hanno fatto fatica, si saranno allenati anche magari mai al completo, questi sono problemi. Adesso hanno l'assetto definitivo, Finlay è tornato paradossalmente più fresco di prima, perché è stato fermo 4 mesi, quindi sono molto pericolosi. Coach, ti saluto, ci sentiamo nel corso dell'estate, non andare in vacanza. Ok ragazzi, a settembre ci sentiamo, ciao Fabrizio. Buone vacanze, coach. Ciao, buona estate a tutti, ciao. Ciao coach. Palla spicchi. Ecco che torniamo con noi Fabrizio Frates, capolavoro a Montegranaro. Fabrizio, vorrei parlarne un attimo, anche se oggi leggo che non è così certo che tu possa rimanere a continuare questo capolavoro. Ma io, dire la verità, l'ho letto anch'io, ecco, fino a martedì prossimo sono sicuramente allenatore della Sutor. Poi, se la società mi comunicherà qualcosa di diverso, abbiamo una clausola nel contratto bilaterale che entro 15 giorni dall'ultima partita di campionato si può rescindere l'eventuale opzione per l'anno successivo. Per cui aspettiamo, vediamo, mi comunicheranno qualcosa, mi chiameranno, mi telefoneranno, mi manderanno piccione, l'ho già trovato. Tu resteresti a continuare questo lavoro? C'è ancora qualcosa da fare? Ci sono dei margini di miglioramento in una stagione onestamente al di sopra di ogni sogno, io credo anche. Ma secondo me sì, perché c'è da aggiustare qualcosina, perché anche nelle stagioni che sembrano perfette qualcosa si sbaglia. Noi quest'anno abbiamo giocato tre quarti di stagione senza uno straniero, poi bisogna adattarsi alle nuove regole, quindi bisognerebbe comunque un pochino modificare il roster, anche se la squadra è fatta da tanti giocatori con contratti pluriennali, quindi lo zoccolo duro soprattutto del gruppo di ragazzi italiani rimarrebbe sicuramente lo stesso. Secondo me c'è sicuramente da fare. Si lavora bene lì, magari l'obiettivo torna a essere quello di quest'anno all'inizio dell'anno, cioè quello di salvarsi, ecco, questo è evidente. Magari bisogna togliersi dalla testa il prima possibile il sogno di tornare a fare i playoff e di mettersi dietro, non so, Roma e Treviso. Questo sì, però se parti con la mentalità giusta, secondo me c'è da lavorare di sicuro, anche perché abbiamo visto che le squadre di provincia che hanno fatto delle grandi stagioni, mi riferisco chiaramente a Biella a Teramo, poi l'hanno pagata l'anno dopo, cioè quest'anno Biella si è salvata l'ultima giornata, Teramo poco si è mancata. Sì, sì, è vero, perché insomma quando tu superi forse i tuoi limiti, come abbiamo fatto noi quest'anno tantissime volte, veramente vai oltre, dopo è anche difficile dal punto di vista mentale, psicologico, tornare a essere un po' quelli di prima, ecco. Per cui si possono fare dei miglioramenti, però noi abbiamo vinto 10 partite di fila, una cosa che onestamente io non riesco a immaginare, a parte Siena, di riuscire a fare in un campionato così equilibrato un'altra volta una serie del genere. Per cui ma se si riparte con tranquillità e con serenità, con gli obiettivi chiari, secondo me si può fare. Sappiamo bene però come la programmazione non sia la qualità migliore della nostra pallacanestro. Ma lì di partenza erano partiti con questa idea, perché hanno dato giocatori a tutti i giocatori, programmazione soprattutto in quello, hanno dato contratti pluriennali, quindi sono ragazzi, abbiamo richiamato giocatori che erano loro ed erano fuori in prestito, Cinciarini che era a Pavia, Filloi che era a Reggio Emilia, quindi li abbiamo fatti tornare, li abbiamo fatti fare la 1, li abbiamo un po' lanciati, quindi io penso che con pazienza loro la programmazione lì l'hanno veramente un po' iniziata. Poi è logico che ogni anno poi ci si aggiusta qualcosina, manca uno straniero, magari si cambia un pochino, bisogna vedere lo status di Brunner, se davvero potesse diventare comunitario si apre la porta a un altro visto, o magari si apre la porta che Brunner trova un mercato, squadra, esatto, sì. Quindi queste cose sono tutte da vedere. Io leggo qualche messaggio e te lo giro, Fabrizio. 349-238-6666, vostre telefonate, ripeto, 800-24-0024, numero verde, credo vi possano far piacere. Fabrizio, sei un grande quando torni a Cantù. Christian, non credo l'anno prossimo. Ma io penso che Cantù meglio di così, con Trinchieri. Io comunque Cantù sono sempre legato, perché mi hanno lanciato loro, perché sono nato lì, perché è la mia squadra del cuore, ecco. Poi sono anche tornato una volta quando era diventata Polti, chi lo sa, magari un giorno ci sarà il terzo ritorno. Altro messaggio, ho parlato con Boscagin l'altra sera, mi ha detto che Fabrizio è il miglior coach tecnicamente preparato dal punto di vista tecnico che ha avuto, scrive Nicola. Altro messaggio che ti giro, dunque. Beh, caffè pagato per Boscagin. Ti ringrazio, sì, ma devo dire che Bosca è un giocatore che mi ha dato tanto e con cui c'è un bel feeling, perché è un ragazzo molto intelligente fuori dal campo, un giocatore che ha superato sicuramente i limiti di un fisico non particolarmente atletico giocando a livelli molto alti. Però Carlo, c'è anche chi scrive il basket sta diventando veramente noioso, dice. Solita Siena, soliti Lakers, speriamo che l'anno prossimo ci sia un campionato vero. È il problema del nostro basket. Ci sarà un campionato vero l'anno prossimo o no? Dobbiamo trovare un antidoto a Siena, però vorrei allargare il discorso, se vi permette. Dobbiamo trovare un antidoto a Siena, ed è indubbio Luca Chiavotti oggi nel descrivere la partita di ieri sera, lo dice chiaramente per l'ennesima volta, però vale per un po' tutti i campionati europei, lasciando stare che il Maccabi quest'anno per una volta ha perso il campionato israeliano, però nella migliore delle ipotesi nei grandi campionati europei c'è un bipolarismo, quindi io ho sempre l'idea che le squadre che nascono con l'obiettivo dell'Eurolega costituiscano poi di fatto una Lega a parte anche quando giocano i loro campionati. Sì, questo è sicuro. Il problema è che qua ce n'è una sola, questo non è colpa di Siena, è solo merito di Siena, perché ormai è colpa di tutti gli altri che non riescono con la programmazione, col lavoro, ad allestire una squadra che possa essere competitiva con loro. La verità è che è vero anche da altre parti, non so, in Spagna c'è Barcellona e Real Madrid, però poi c'è anche il Tau, però poi insomma anche chi vince il campionato può andare fuori casa e perdere. Ecco, la verità è che qua loro vanno una seconda classifica, vincono di 40, e questo oggettivamente è proprio una legge di mercato, l'interesse lo suscita l'equilibrio naturale. Questo è naturale, con questo senza assolutamente togliere niente a Siena, anzi tanto di cappello, e la stanno facendo veramente piazza pulita, perché hanno una programmazione, un'organizzazione, un lavoro dietro che gli altri non sono ancora riusciti a fare, hanno anche risorse forse che altri non hanno, sì, dietro, però partono da lontano e il dominio è tutto meritato. Ma io anche in Italia c'è stato dominio, ci sono gli anni che ha dominato Varese, gli anni che ha dominato Milano, gli anni che ha dominato Bologna. Cantù, Bologna, però c'era la sensazione che insomma la domenica poi dopo comunque per vincere, soprattutto fuori casa, anche queste grandissime squadre facevano fatica. Ecco, questi fanno fatica veramente poco. Ecco, io volevo chiederti, tanto che ci siamo, di una squadra che tu conosci bene anche sicuramente come piazza, che è Caserta, una squadra che quest'anno comunque ha divertito, è sicuramente diversa come filosofia rispetto a Siena, però ha forse cercato di proporre un qualcosa di nuovo, no, rispetto a quello che vediamo normalmente. Beh, allora, secondo me Caserta hanno fatto una squadra bellissima, perché hanno mixato giocatori di grande esperienza come Jumaine Jones, come Di Bella, come Michel Ori, che conoscono già la realtà del campionato di altissimo livello, con giocatori a cui hanno dato la chance e che hanno saputo prenderla, come Kozarek, come Dornekamp, e quindi hanno fatto il giusto mix. Poi hanno un pubblico strepitoso, hanno fatto un campionato veramente bellissimo. Io mi auguro che possano fare anche l'anno prossimo, avranno l'Eurolega, se non vincono la serie con Milano dovranno fare i preliminari, credo. Ecco, che comunque adesso anche i preliminari per le squadre italiane sono diventati molto, certo, difficili, perché il livello in Europa si è molto alzato, però se la sono meritata sul campo. Primo ascoltatore di oggi, Giorgio da Pesaro, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie di avermi chiamato. Io vi faccio i complimenti perché ho sempre modo di parlare con voi, sono un assiduo frequentatore. Benissimo. Dei vostri trasmissioni. Volevo fare una domanda al coach Cinciarini. Cinciarini, quel play che ha lì a, sì, a Montegranaro, che non gli serve, ma penso farebbe comodo, ragazzo, bravo. Come cosa no? Ne pensa? A Montegranaro ha servito tantissimo. No, ma con maestranti adesso ne avete due, è un po' un casino, invece noi no, play, no? No, beh, si sono divisi con molto bene il ruolo. Cinciarini, chiaramente il cambio di maestranti, però ha finito la stagione con 16-17 minuti. In alcune partite ha finito anche le partite nei momenti chiave in campo lui, qualche volta giocato anche di guardia. Io penso che sia una risorsa di Montegranaro e non lo molleranno sicuramente e facilmente. Fabrizio, tanta Italia, abbastanza Italia in questa Montegranaro, molti ascoltatori l'hanno più volte sottolineato, no? Da Cavaliero, Cinciarini, Lettaler, eccetera eccetera, abbiamo citato tutti, maestranzichi italiano, pur essendo nato a Chicago. Questo ti ha aiutato nel corso della stagione? Sicuro ci ha aiutato, perché ragazzi italiani, soprattutto se motivati e che capiscono che grande occasione hanno e che non molte società sono disposte a dargli, ci hanno aiutato tantissimo. Ecco, noi abbiamo fatto giocare ragazzi giovani, abbiamo dato contratti pluriennali, io penso che sia una bella strada. Ecco, poi magari se vuoi vincere lo scudetto devi cercare anche qualcosa di più, però per il nostro range, diciamo, per il nostro target è stata una scelta sicuramente azzeccatissima. Michele da Caserta, poi ci fermiamo per la borsa. Buongiorno Michele. Buongiorno a tutti, saluto il coach Frades prima di tutto. Buongiorno, ciao. Volevo ringraziarla per quello che ha fatto Caserta, che ci ha riportato in A, una salvezza tranquilla, e di non dar peso a tutte quelle pochissime voci che ci sono di discredito su lei. Lei rimarrà sempre nella nostra storia. Ti ringrazio, e anche voi, perché sono stati due anni bellissimi, anche se la salvezza dell'anno dopo, credimi, è stata faticosa, però mi piace quando c'è qualche voce di qualche piccolo. Non si può pensare di avere il consenso di tutti. Sì. Comunque volevo chiedere una vostra considerazione sulla partita di gara 1 tra Milano e Caserta, relativa alla critica di coach Sagripandi, diciamo così, che Hall durante la partita ha un po' stuzzicato Jones dal ma se ne è parlato tanto, trash talk tra Jones e Hall, secondo me è una cosa che ci sta, fa parte del gioco e dei giochi e di questo gioco. Ma sicuro, io credo che soprattutto per Jumaine Jones, che è un giocatore di lunga esperienza e lunga milizia NBA, non è una cosa che lo condiziona, gli fa cambiare l'atteggiamento sul campo. Però l'ha molto innervosito. Sì, l'ha innervosito, sì, secondo me l'ha innervosito di più il fatto che Hall stava giocando meglio di lui, ecco, al di là di quello che gli ha detto, perché effettivamente Hall, che è molto discontinuo ma sicuramente tante qualità, ha beccato la partita buona e forse stimolato dal duello con la grande ex stella NBA ha fatto una grandissima partita. Però non penso che Jumaine Jones, io mi aspetto già che stasera la partita sia diversa come atteggiamento. È vero che Milano è una squadra molto fisica, è molto dura, gioca molto sui contatti, ha giocatori solidi con grande mestiere, quindi può anche succedere che ti fa un po' perdere il nervo, ma questo fa parte del gioco. Palla spicchi. Ecco che torniamo, caro Fabrizio Frates, ripartiamo da un mio amico che ti ha appena eliminato. Playoff visti dal campo, Marco Mordente, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Fabrizio. Ciao. Marco, stavamo giusto parlando di voi, squadra molto fisica, duello Hall Jumaine Jones destinato stasera alla seconda puntata, come sono le ore della vigilia? Ah, sono buone, solo che secondo me si sta dando un po' troppa attenzione a questo duello, perché alla fine c'è stato un po' di trash talking in campo. Ma sì. E io spero normale, di rivederlo stasera, ti confermo. Ma certo, chiaro. Ma io da una parte sì per lo spettacolo, però dall'altra mi dispiace perché stanno montando un po' troppo sta cosa e stanno caricando anche il pubblico oltre fuori misura, sinceramente non mi piace. Senti, non ci ascolta nessuno, soprattutto a Caserta, cosa avete preparato questa sera di diverso? Come diceva Rino Banfi, allenatore del pallone, la bizzona. Senti Marco, tu la settimana scorsa quando ci siamo sentiti hai detto: noi dobbiamo dimostrare di essere superiori a Caserta, visto che quest'anno non l'abbiamo mai fatto. Questa partita vi ha dato consapevolezza, un po' di consapevolezza in più chiaramente nei vostri mezzi, e vi ha dato anche fiducia, perché comunque vincere a Caserta non è facilissimo. Guarda, ci ha dato consapevolezza, è vero, ma soprattutto chi ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi, secondo me, la vittoria che abbiamo fatto a Montegranaro. E prendo quella come esempio per dire che nella stessa maniera abbiamo giocato, cioè con molta freddezza, con molta lucidità, nonostante comunque c'era un'atmosfera molto molto più calda rispetto a quella giocata in gara 3 a Montegranaro. E questa è una cosa che mi fa piacere, perché comunque siamo riusciti a essere concreti tutte e due le volte, siamo riusciti a essere molto molto concreti in gara 1 nonostante comunque le tante interferenze. Begli amici che è Fabrizio. Sì, volevo sapere se nella bizzona sta davanti o sta dietro. Questo davanti o sta dietro? Te dove metteresti Fabrizio? Io fuori. Allora insieme a te, diciamo. Esatto. Però Stella vicino a me. Esatto, da dove okay. Si vede meglio la partita. Vabbè, perfetto, andata. Marco, stiamo parlando tantissimi questi giorni di Arnold e Monroe. Io ho detto prima, aspettiamo un attimo per vedere se possono davvero dare questo contributo a Milano. Certo è stata la miglior Milano della stagione, quella che abbiamo visto l'altra sera. È vero, ma loro due soprattutto hanno fatto una partita strepitosa, quasi perfetta. Ci metterei la firma per poter rivedere anche vicino al perfetto dell'altra sera. In quello che mi ha fatto più piacere è soprattutto vedere Mike Hall concentrato, difensivamente molto, molto solido, e anche in attacco ha iniziato un po' a riguardare il canestro, prendendo un po' di fiducia e facendo anche dei canestri importanti. Quindi mi aspetto un'altra prova così da lui, e poi dai due nuovi spero semplicemente che facciano la loro partita tranquillamente, senza aspettarsi di ripetere la prestazione l'altra volta, perché altrimenti andrebbero anche un po' fuori da quelli che sono i nostri schemi. Cantù cerca il punto della bandiera invece nell'altra serie, domani sera al Pianella. Credo che sia, lo dicevamo prima, tutto quello che Cantù può spremere da questa serie. Ma è brutto dirlo, come ero stato sincero nella partita contro, nella serie prima, Cantù-Virtus, dove avevo detto che avrebbe vinto Cantù. Qui mi sembra giusto dire che non c'è storia, senza togliere nulla a Cantù per quello che ha fatto, perché comunque è come se avessero vinto già due scudetti, uno ai playoff e uno essere arrivati in semifinale. Siena ha tutto un altro organico e ha molta più forza fisica, molte più energie. Cantù credo che abbia sicuramente, metterà davanti come sempre il cuore e l'orgoglio, però non ci sia tanta storia. E ti chiudo con un messaggio, lo manda Stefania da agenzia matrimoniale, dite a Mordente che lo amo alla follia, che deve restare all'Olimpia per sempre. Si può fare, di stare all'Olimpia per sempre si può fare, mi piacerebbe, non sarebbe male. A Milano si sta da Dio, l'Olimpia è la squadra più importante, se prima o poi riuscissimo a vincere qualche cosa sarebbe ancora più bello. Mi raccomando, con la Bizzona stasera, in bocca al lupo. La Bizzona, se funziona, poi chiamo Fabrizio e lo ringrazio. Certo, direi. Ciao Marco. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Marco, lupo. Ciao. La Bizzona non è male, si può provare. Mordente fuori. Che ci mettiamo? All che lo vedo bene in una Bizzona. Sì. Potrebbe giocare da tre all e giocare con i tre lunghi. No, loro fanno anche un po' di zona, l'allungano, soprattutto stanno in questi playoff, stanno usando tantissimo il pressing, che mi sembra un tema tecnico di queste partite. Perché anche l'hanno usato diverse volte. L'hanno usato diverse volte, e anche ieri sera vedevo Siena allungato subito la difesa dal primo minuto della partita. Anche Cantucci ha provato, e naturalmente con energie diverse, perché Siena riesce a farlo poi per 40 minuti ruotando gli esterni, e con la fisicità di Sato, Hawkins e McIntyre insieme, insomma è durissima passare quello sbarramento, per cui questo mi sembra un tema tattico e tecnico dei playoff abbastanza nuovo. Hall, visto che ne stavamo parlando, giocatore che a me non piace, l'ho già detto molte volte, molto ondivago, e comunque impossibile usare Hall con profitto come è stato usato quest'anno. Giocatore cui tu devi dare campo fiducia, devi appenderti a lui, pur essendo un giocatore abbastanza ondivago, oppure è meglio non averlo, secondo me, fuori dai denti. Ma secondo me ha tantissimo talento, a me piace tantissimo come passa la palla, soprattutto ha tutto, è tutto per essere un 4 importante in Europa. Certo, questa discontinuità non lo rende consistente, e magari tu fai fatica a costruire una squadra importante pensando di avere lui come titolare senza alternative. Allora ti prendi l'alternativa, nel momento però che hai l'alternativa, allora tutta questa fiducia non c'è, e lui può soffrirne, può fare questo rendimento così un po' up and down, che di fatto vai alla partita la domenica e non sai mai veramente qual è il vero Hall. Si può fare una partita da 20 punti e 9 rimbalzi, e può fare una partita da 4 punti e 1 rimbalzo. Sì, è un po' limitante per un giocatore, però soffrire così tanto il fatto di avere un'alternativa dietro, cioè soprattutto in squadre di alto livello, forse diciamo che a voi allenatori servono giocatori magari in grado di riuscire a dare quello che hanno anche in 20-25 minuti, cioè la volta che giochi 38 e la volta che giochi 15. Cioè sì, ma questo è un po' lo step decisivo per passare da una squadra normale a una squadra con grandi ambizioni, è capire che si riesce a giocare, bisogna giocare dei minutaggi più accorciati, perché bisogna alzare l'intensità e perché la squadra ha bisogno di avere delle alternative. Quindi ormai, se vai a guardare le statistiche delle squadre di Eurolega, non c'è nessuno che superi i 30 minuti, mai nessuno, giocano tutti 26, 24, 27, 22, e uno deve saper concentrare le cose buone. buone. Se ha bisogno di tutta la partita, perché è di quantità per fare le cose buone, allora deve giocare forse a un livello un po' più basso, certo. Dove è un giocatore fondamentale, unico, e ha la fiducia di tutti, anche perché non ci sono altre possibilità per fare diversamente. Naturale. Frate, svira Cremona, vero? Scrive un ascoltatore via SMS. Ma, quasi ti implora. No, beh, lo ringrazio. Cremona è una bellissima società. Hanno fatto il primo anno di A1, giustamente faticoso, perché il primo anno di A1 è durissimo per tutti, però anche noi l'anno scorso a Caserta, dopo la promozione, abbiamo fatto tanta fatica, però mi sembra una realtà che può solo che crescere, quindi è sicuramente una piazza molto ambita, non solo da me, ma tanti miei colleghi. Salto a Brindisi, Matteo, buongiorno. Salve coach. Buongiorno. Volevo sapere alcune considerazioni per quanto riguarda il Brindisi in Serie A, con citazione sempre dello sponsor Enel Brindisi, cosa secondo lei dove potevamo arrivare? Beh, più di così non si poteva arrivare da nessuna parte, ecco. Poi il futuro mi sembra che stanno gettando le basi per fare molto bene. Brindisi manca da tanto nella massima serie, però c'è un entusiasmo pazzesco. Io ho visto un paio di partite in trasferta del Brindisi in televisione, seguiti da una marea di tifosi. Mi ricordo un po' la situazione che si era creata a Caserta nell'anno della promozione, quindi sulle ali di questo entusiasmo io penso che ci sia tutto per fare bene. E poi soprattutto ora che il basket del sud ha trovato un'altra stella, dopo che è buscata quella di Napoli, dopo questo campionato da dimenticare per quanto riguarda quel capitolo. Certo, quando arrivi in queste situazioni, Fabrizio, credo che il problema sia mantenere i piedi per terra, no? Entusiasmo, certo. Palazzetto nuovo, adesso serve appunto quella che in Italia emerge abbastanza rara, una programmazione che non sia da... Sì, anche perché sono sincero, la diversità di livello fra la 2 e la 1 è importante. Sì, è molto importante, quindi la squadra va sicuramente irrobustita tanto. Bisogna prepararsi anche al discorso che tu puoi perdere più partite di fila, ecco, e devi rimanere sereno in quei momenti lì, perché quando tu fai una stagione vincente in A2, non so, io mi ricordo l'anno di Caserta, noi perdiamo 5 partite in un anno e playoff abbiamo fatto 9 su 10. Ecco, quindi gestisci comunque un clima, un'atmosfera di grande entusiasmo. Vai in A1, ne perdi 4 di fila, ma non perché sei debole, perché il calendario è così. Magari nelle prime 4 ne è solo una in casa, e quella in casa è Siena, ci metti un attimo a fare 0-4. Ecco, lì devi avere la lucidità e la solidità e la serenità per andare avanti e credere nel progetto che hai fatto. Cosa che a voi è successa quest'anno, tra poco ne parliamo. Cosa è successo quest'anno, poi quel sito Facebook, quella pagina Facebook, vicenda molto carina che Fabrizio Frate si è gestito da fuori classe, e poi si è accesa la luce a Montegranaro. Palla spicchi. Allora, torniamo per spiegarvi questa, no? Tu non dovresti parlare di Facebook, visto che l'anno non ricordi mai la pagina di Palla Spicchi su Facebook. Io sono ignorante in maniera abissale, tu lo sai bene. Inizio di Montegranaro, inizio stagione a Montegranaro che perde 4 partite, no? Cosa avete fatto? Abbiamo vinto solo con Caserta in casa. Con Caserta in casa, che in quel momento lì sembrava una roba facile, e si è visto poi Caserta dove è arrivata. Abbiamo perso fuori a Bologna, abbiamo perso fuori e poi abbiamo perso in casa con Varese. È stato lì il momento della grande tensione. La squadra non era ancora squadra. Anche un po', devo dire, tutti anche un po' illusi, perché avevamo fatto un precampionato pazzesco, dove avevamo vinto sempre praticamente, avevamo vinto con Biella, avevamo vinto con tutte le squadre di A2 che avevamo incontrato, ma bene anche, quindi pensavamo di partire pronti, invece non eravamo pronti per niente, dovevamo trovare i nostri equilibri. Poi piano piano abbiamo cambiato un po' le rotazioni, abbiamo cambiato alcune situazioni anche proprio di distribuzione del minutaggio in campo, e dopo la squadra ha cominciato a girare. Normalissimi problemi di crescita in una fase così della stagione. Sì, però sai, era tutta nuova, con alcuni giocatori non conosciuti, per cui su cui tutti avevano messo un punto interrogativo, tipo tipo Tony Maestranzi, che poi ha fatto una stagione straordinaria, però nessuno aveva mai visto playmaker titolare, e così a vederlo uno dice ma così tutto qui. È tutto qui, per cui già cominciavano l'allenatore nuovo, cominciavano già il malcontento, e nasce questa pagina su Facebook via Fabrizio Frates, e il primo iscritto chi è stato? Io, è normale. Sì. No, ma quello è stato un momento divertente, carino, poi l'hanno cancellata subito, e poi ne hanno fatto anche una per Frates a Montegranaro per sempre. Sì. Sì. Basta che vinci un po'. Beh, un po', 10 di fila. Sì, no, 10 di fila. Mica un po'. Sono state davvero un bel passo. Ascolta, Maestranzi, molti dicono potrebbe essere playmaker titolare della prima nazionale di Pianigiani, giocatore che insomma hai visto crescere quest'anno. Beh, bisognerebbe chiederlo a Simone come l'ha visto. Tu come lo vedi? Io lo vedo che come testa e come leadership non gli manca niente, anche se è un giocatore molto silenzioso, ha leadership con l'esempio sul campo. A livello internazionale lo bisogna testarlo, perché oggettivamente è piccolino, pur essendo tosto, però insomma dal punto di vista atletico abbiamo visto un po' i playoff, quando è stato aggredito ha fatto un po' fatica, ecco. Però magari abbinandolo a giocatori fisici tipo Di Bella, tipo non so, che ha fatto una stagione straordinaria, tipo Bulleri, insomma ci sono giocatori, mi sembra che il panorama dei playmaker italiani sia un po' tutti dello stesso tipo, cioè da Rumba di corsa, Poeta, sì, Di Bella, sì, sì. Ecco così. Maestranzi potrebbe essere utile proprio per quello, perché è completamente diverso, cioè il giocatore che evoluzione della specie Bonora, esatto, che fa giocare la squadra, grande tiro a tre punti, attenzione, può risolvere 50% da tre ha fatto nel giro di ritorno, sì quindi può risolvere partite importanti con situazioni così. C'è poi c'è il discorso dell'eleggibilità, perché se loro portano Maestranzi si bruciano il passaporto, e il passaportato potrebbe anche essere, non so, Maison Rocca. Ecco, bisogna vedere loro che idee hanno. Senti, invece, visto che stiamo parlando di playmaker, l'involuzione di, o comunque la stagione negativa di Poeta a Teramo dopo quella brillantissima nazionale. Allora, l'anno scorso hanno fatto una stagione straordinaria, la squadra intorno gli è cambiata, e soprattutto secondo me al ragazzo non ha fatto bene per niente questa menata estiva, che lui doveva andare a Roma, che a Roma ripartiva da lui, che c'era il grande progetto e tutto, e poi dopo non si è concretizzato per mille motivi, ed è difficile poi ripartire, è difficile. Peraltro è un tormentone che sta ricominciando, perché in questi giorni ho letto da qualche parte appunto che potrebbe ricominciare questo discorso, se resto mi fa piacere, ma anche se mi vogliono cedere sono contento lo stesso, insomma non facile. Sì, perché poi il ragazzo, che è un ragazzo bravissimo e buonissimo, deve gestire la delusione eventuale, perché è indubbio che uno senza togliere niente a Teramo è legittimamente sogna di fare l'Eurolega e di andare magari a Roma a confrontarsi a un livello ancora più alto. Ecco che è arrivato Flavio Tranquillo. Buongiorno Flavio. Buongiorno a voi. Nottataccia, notte lunga. notte lunga, non accia però. No, 102-89, Lakers che hanno trovato, ho avuto questa impressione passando la notte ascoltandoti, peraltro, che i Lakers avevano trovato presto le chiavi della difesa dei Celtics, comunque sono stati sempre in controllo di questa partita. Sì, più netto del 102-89, perché i Lakers sono stati così particolarmente brillanti al tiro in attacco, eppure sono sempre stati in controllo, come dicevi. A me sembra, rivedendo adesso il primo quarto, che i Lakers abbiano giocato da Celtics e i Celtics non da Celtics. Fabrizio, hai visto qualcosa di questi playoff? No, io sì, dei playoff ho visto tutto ieri sera, stanotte non li ho fatta. Ciao Flavio, io quello da lì, io sono un anziano, ho la bambina piccola, quelle ore lì non ce la vedo sempre. Se voi non mi aveste cuccato qua, avrei visto la replica delle due. Ecco, però, poi te la faccio vedere. Però questa me la sono persa, anche se ho visto tutte le partite delle due finali di conference. Io tifo dichiaratamente Celtics, ma perché insomma d'affetto perché i Celtics, non so Flavio come la pensa, ma insomma quando eravamo ragazzi, complici anche Peterson, queste cose leggendarie di Bird, Parrish, così ci hanno sempre solleticato l'immaginario, più di Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson stanno, però io sono dei per i Celtics. Ragazzi, parlate per voi, perché lui è giovane, io Lakers, lui è giovane, tifosi divide. Flavio, però i Lakers sono più forti adesso, non, sì. Sono, secondo me sono più forti, e poi hanno un giocatore che può vincere la partita da solo, gli altri ne hanno di forti, ma così no, non ce l'ha nessuno. Però questi Celtics un po' mi hanno illuso nella crescita che hanno avuto nei playoff, in un meccanismo difensivo che sembrava perfetto, nell'orgoglio di tutti questi campioni. Però vedendoli in campo, Flavio, Lakers più freschi, più pronti, anche più sani, c'è da dire che mi sembrano francamente abbastanza alle cozze i Celtics fisicamente. I Lakers sono più forti, su questo non si discute. Se Garnett è quello di questa gara 1, per i Celtics è molto difficile, però io sono molto tetragono sempre a ragionare la mattina dopo la prima partita, specie quando c'è una vittoria così netta nella sostanza, perché sembra sempre che la serie sia finita. Lo scorso anno Orlando la prima partita non l'ha neanche giocata, non ha neanche fatto un'apparizione, la seconda ha avuto una deviazione al volo da un metro per vincerla e la quarta se l'è mangiata. Poi agli atti c'è un 4-1 Lakers, però non è stato così 4-1 come dice il punteggio finale, e conoscendo i Celtics io aspetterei un po' prima di darli per morti. Sembrano avere difficoltà fisiche, però questo è in dubbio. Da Rashid Wallace allo stesso Garnett, che non ho visto così brillante, a Rondo, hanno problemi fisici indubbi? Sicuramente, poi ci sono giocatori che hanno un chilometraggio, non dico illimitato, ma sicuramente robusto. Però chi è che non ha problemi fisici, come ha detto Rondo prima dell'inizio di questa serie finale? Solo i rookie che non hanno giocato. Sì. Boston non ha trovato le manette per Gasol nella partita di stanotte. Gasol è irreale. Se non ci fosse Kobe Bryant saremmo qui a parlare solamente di Gasol, che sta giocando una pallacanestro al di là di ogni previsione possibile, nel senso che a livello cerebrale è, secondo me, veramente uno dei primi due o tre giocatori dell'NBA. Per comprensione del gioco è fuori da qualsiasi misurazione, è il tutto in un sistema che è molto particolare, che è basato solo sulle letture e che certo non viene utilizzato in quanto tale. Dei pezzi di questo sistema vengono utilizzati in Europa, ma non in quanto tale e non basato così sulle letture. È davvero affascinante vederlo giocare. Grazie Flavio, buon lavoro. A voi. Ciao Flavio. Noi ci sentiamo domenica, 8:30, 9, siamo sempre qui a parlare di basket. Pau Gasol, ai tempi di Parrish, McHale, eccetera, saresti immaginato uno spagnolo protagonista in finale NBA. Certo, sembrava un mondo veramente irraggiungibile per gli europei, poi invece ce ne sono andati e tanti, e hanno fatto tutti bene, e tanti bene. Però Gasol, io quello che dico è che è tanto tanto migliorato anche da quando è lì, è forse il giocatore che è arrivato con una dimensione e ne ha guadagnato di più, perché veramente in attacco lui non era così importante, non era un giocatore su cui andare come prima opzione di un attacco, per cui ha fatto anche tanta strada e questo è merito suo. Fabrizio, ti ringrazio di essere tornato. Grazie a voi. A chiudere questa stagione di Palaspicchi, ovunque tu vada, ti auguro di migliorare il risultato di quest'anno, che sarà difficilissimo. Insomma, meglio di quest'anno vuol dire che facciamo la semifinale, mi sembra bellissimo. Grazie Fabrizio Frates, a Flavio Suardi. Grazie a voi. Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantatore in regia. Noi ci sentiamo domani dalle 5 alle 6, solito appuntamento del sabato con a tempo di sport, che rimarrà invariato anche in epoca di mondiali. Ci risentiamo poi domenica, in questo caso eccezionalmente sempre dalle 5 alle 6, perché poi torna l'appuntamento dalle 5 alle 7, 17, 19 per i mondiali di calcio, che seguiremo con A Tempo di Sport ogni giorno dalle 14 alle 15 con Gigi Garanzini, con uno speciale con il sottoscritto ogni sera dalle 21 fino alle 22:30. Questo accade da venerdì prossimo, giorno dell'inizio dei mondiali di calcio. Grazie a tutti.